Europa 24. In primo piano la crisi ucraina, giornata importante quella di oggi sul fronte della diplomazia europea, occhi puntati su Bruxelles. I capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea sono riuniti oggi a Bruxelles per trovare una posizione comune nel reagire alla Russia e al suo intervento militare in Ucraina. Le divisioni sono evidenti a molti. La nuova Europa, capeggiata dalla Polonia, vorrebbe usare il pugno duro contro Mosca, mentre la vecchia Europa, guidata dalla Germania, ha paura di mettere a repentaglio le relazioni anche economiche con la Russia. Nel frattempo, la Commissione europea ha messo sul tavolo prestiti all'Ucraina per un totale di 11 miliardi di euro su un periodo di 2 anni. La situazione per l'Europa è particolarmente difficile. In ballo non c'è solo il rapporto con la Russia. Proponendo un accordo di associazione all'Ucraina, l'Unione ha contribuito alle divisioni nel paese, oggi sull'orlo della guerra civile, tra nazionalisti ucraini e comunità russofona. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'Europa striglia ancora l'Italia su Pompei, le deroghe non sono possibili, dice il portavoce del commissario europeo alle politiche regionali Hahn. Invece di cercare le eccezioni, la cosa più importante è concentrarsi e lavorare. Faremo una checklist per monitorare da vicino l'avanzamento dei lavori e un punto della situazione pubblico prima della pausa estiva. Da Atene parla invece il commissario europeo alla cultura Andrulla Vassiliou. Non mi stancherò mai di ripetere che il patrimonio culturale dell'Europa è uno dei suoi beni più preziosi. Proteggerlo ed utilizzare appieno il suo potenziale è una responsabilità condivisa. Questo il mio messaggio dopo aver saputo degli ultimi crolli nel sito di Pompei a causa della pioggia. Bacchettata su Pompei, ma non solo. Le misure prese finora dall'Italia contro il sovraffollamento delle carceri sono insufficienti, ha stabilito il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha anche espresso preoccupazione per come l'Italia sta affrontando la questione in vista della scadenza fissata per il 27 maggio prossimo. Nuovo record di domande di brevetti nel 2013 per l'Ufficio Brevetti Europeo, anche se le richieste provenienti dall'Italia sono diminuite. Lo scorso anno le imprese italiane e i singoli inventori hanno presentato 4.663 richieste, in calo del 2,7% rispetto al 2012. Ma l'Italia ha comunque visto aumentare il numero di brevetti concessi, il 5% in più, classificandosi all'11° posto. E secondo il presidente di IPO, Benoît Battistelli, l'Europa, Italia compresa, si conferma come uno snodo importante per l'innovazione nel mondo. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Abbiamo avuto un aumento delle nostre domande di brevetti nel 2013 del 2,8% sull'anno precedente e in tutto l'Ufficio Brevetti Europeo ha ricevuto 265.000 richieste, che è il miglior risultato di sempre. Il 35% delle domande viene da paesi europei e il 65% da paesi extraeuropei. Per questo IPO ha un ruolo a livello internazionale. Il primo settore per richieste è quello delle tecnologie mediche, che in Europa ha grandi protagonisti, poi quello chimico, quello farmaceutico, quello dei macchinari elettrici e quello energetico, comunicazione digitale, computer, trasporti, tutti i settori nei quali abbiamo avuto forti aumenti di richieste. Possiamo proteggere le invenzioni in tutti i paesi europei, ma anche gli inventori possono ottenere la protezione del proprio brevetto nei 38 stati aderenti. L'Italia rappresenta solo il 2% del totale, si classifica all'11° posto, mentre la maggior parte delle richieste è arrivata da Stati Uniti e Giappone, ma anche da Cina e Corea del Sud. La Commissione europea vorrebbe rendere più difficile per i gruppi armati finanziare le loro attività tramite il commercio di minerali come oro, stagno e tantalio con le imprese europee. L'approccio integrato presentato dall'alto rappresentante per la politica estera Catherine Ashton e dal commissario al commercio Karel De Gucht intende permettere alle imprese di approvvigionarsi più facilmente in modo responsabile, favorendo i canali commerciali legittimi. Le nuove norme introducono un sistema europeo di autocertificazione per gli importatori. Scade oggi il termine per presentare la domanda per votare all'estero per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in programma il 25 maggio. La possibilità di voto all'estero riguarda gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri paesi membri dell'Unione Europea. Entro oggi dunque gli italiani temporaneamente all'estero per lavoro, per motivi di studio, Erasmus, dottorati di ricerca o master possono far pervenire al consolato la domanda diretta al sindaco del comune nelle liste elettorali del quale sono iscritti. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.